la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, buon inizio di settimana. Questo lunedì 13 di gennaio, 16:35 primi 28 secondi, quindi diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Continuiamo in questo inizio di settimana a occuparci del tema di cui ci siamo occupati in due puntate alla fine della settimana scorsa. Ancora parliamo di lavoro e iniziamo con gli esodati anche oggi, perché abbiamo cambiato ospite, perché dobbiamo rappresentare a questi microfoni i diversi punti di vista. Per chi segue Radio 24, stamattina era anche ospite di Alessandro Milan Taddei, che nella segreteria del PD è, diciamo, un po' il coordinatore del nuovo progetto lavoro che dovrebbe essere esaminato e varato dalla direzione del PD entro qualche giorno, il 16 si diceva. Oggi pomeriggio è con noi per parlare di esodati e lavoro dal suo punto di vista, e dal punto di vista che non è solo il suo personale ma è quello di una fetta rilevante dei gruppi parlamentari del PD, il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei. Allora, inizio dallo stesso punto che ci ha indotto la settimana scorsa a occuparci di esodati. Quando leggemmo sul Corriere della Sera che, a fronte dei 5 interventi succeduti dai diversi governi, dalla riforma Fornero per la copertura degli esodati e 11 miliardi e mezzo di euro stanziati pluriennali per coprire gli esodati, quando leggemmo che poi l'INPS sosteneva che erano 27.000 i trattamenti già in essere a fronte di oltre 80.000 domande, ma che quei 27.000 erano la copertura totale di coloro che avevano diritto ed erano scoperti, qualcosa iniziò a non tornarci, onorevole Damiano, perché iniziamo a essere sommersi da lettere di moltissimi casi che ci segnalavano di persone che avevano avuto il titolo per essere coperti, ma magari rivolgendosi all'INPS dicevano di avere risposte, non c'è copertura. Ci siamo imbattuti nei 12.000 del settore del credito che hanno detto noi in realtà dovevamo essere coperti ma siamo ancora appesi, e insomma i conti rispetto alla versione ufficiale dell'INPS non ci tornano. Lei, sotto questo profilo, che cosa pensa? È stato fatto tutto il possibile? Perché così tanti continuano a dire di non essere tutelati, onorevole? Beh, la situazione è complicatissima a spiegarla, insomma, si fa abbastanza fatica. Del resto, come lei sa, nessuno ha numeri certi a disposizione. Allora, purtroppo, questo lo si capisce fino a un certo punto, perché comprendo che il licenziato della piccola azienda di 3 dipendenti, di 4 dipendenti, sfugge al controllo, al censimento. Però se togliamo questi casi che sfuggono al controllo, la banca dati dell'INPS, che è una delle più attrezzate in assoluto, quindi un'anagrafica piuttosto importante, dovrebbe avere le movimentazioni fondamentali. Ricordiamo tutti che per una serie di motivi l'istituto dette tempo fa una cifra complessiva di 390.000 persone in qualche modo coinvolte dalla cosiddetta riforma, che io metto fra virgolette, dell'ex ministro Fornero. Poi quel dato si rivelò, sempre a detta dell'istituto, gonfiato, perché tra i prosecutori volontari cosiddetti, coloro che continuano a versare volontariamente dei contributi al fine di raggiungere l'obiettivo pensionistico, c'erano persone che magari avevano 40 anni di età, che evidentemente non potevano rientrare nella manovra che abbiamo messo in atto in varie fasi per risolvere il problema dei cosiddetti esodati. Il termine esodati improprio l'abbiamo detto tantissime volte. Abbiamo provato a spiegarlo anche qui. Perfetto, quindi io non lo spiego più, perché immagino che voi e gli ascoltatori sappiate di che cosa parliamo, delle innumerevoli famiglie di persone. Io ho fatto un conto, l'avete fatto voi, gli interventi che si sono succeduti, prima 65.000, poi 55.000, poi 10.130, poi 6.000, poi 9.000, poi 17.000, siamo, se non sbaglio, a 163.000 persone salvaguardate. Io stesso mi sono recato con una delegazione di esodati prima delle feste natalizie dalla direzione generale dell'INPS per chiedere conto, facendo una domanda banale: quanti di questi hanno la pensione in tasca? All'epoca erano 25.000, adesso sono diventati 27.000. E io ho avanzato anche una richiesta che appare semplice, ho detto: ma non è possibile che l'istituto preveda sulla base della sua anagrafica quante persone trimestre per trimestre, sì, sulla base delle nuove regole che abbiamo pattuito, andranno in pensione, in modo tale anche un po' da rasserenare. La risposta è stata ancora, diciamo, interlocutoria, fermo restando che la richiesta che ho formato come Presidente della Commissione Lavoro dovrebbe trovare a breve una risposta da parte dell'INPS, che dovrebbe dare una qualche idea di programmazione. Però è un po' singolare, Presidente, per quanto ci sia, siamo tutti consapevoli dello stato, per così dire, no? della difficoltà della pubblica amministrazione digitalizzata, però a distanza di così tanto tempo dalla riforma, possibile mai che non sia stato possibile organizzare un flusso ordinato di dati? Il flusso ordinato di dati cozza contro un problema che però non spiega la situazione. Il problema è effettivamente legato a quella fattispecie di salvaguardati che rientrano nel capitolo di coloro che hanno stipulato accordi, sì, di mobilità. Si dice che le aziende, qui ne approfitto perché sono in casa Confindustria se non sbaglio, sì, di lanciare un appello a Confindustria per dire, vale per Rete Imprese Italia, per altre, sì, per tutte le associazioni di impresa, per tutte le associazioni di impresa, guardate che i vostri associati, che dichiarano di avere molti lavoratori in mobilità che potrebbero accedere come scivolo dopo la mobilità alla pensione in quanto salvaguardati, le vostre imprese non hanno purtroppo fornito dati, per cui si dice che dei numeri a disposizione, mi pare 40.000, si è arrivati a 10.000 segnalazioni diciamo nominative da parte del sistema delle imprese, naturalmente possono essere state di più, ma l'INPS ha fatto un po' un repulisti tra coloro che avevano segnalati il diritto e coloro che non avevano il diritto. Quindi, diciamo, quindi intanto questo appello mi sembra importante, le associazioni di impresa possono e devono fare di più per contribuire, in maniera tale che poi l'INPS non dica non sappiamo. Le imprese, se hanno lavoratori che rientrano in quella fattispecie, sono pregate, glielo, certo, chiedo anch'io, di segnalarli quei lavoratori in modo tale che tutto quello che abbiamo messo a disposizione venga riempito. Però io insisto nel confronto con l'INPS per avere, come si dice, chiarezza su questo punto. Mi piacerebbe che ci fosse una programmazione di flussi di carattere trimestrale, almeno statistica, in modo tale che uno dica adesso sono 27, certo, sono 37, 47, 57, altrimenti sai cosa succede? Io che ho fatto il ministro, un po' me ne intendo, succede che il legislatore ritiene di aver fatto un'azione encomiabile nel momento in cui ha stanziato 11 miliardi, esatto, e fischia di euro, il che non è poco, lo può ben comprendere, e di aver salvaguardato sulla carta 160.000 persone, quando in realtà poi a consuntivo, sulla base dei pali, paletti, palettini che vengono posti, delle interpretazioni legislative eccetera eccetera, il numero è molto più ristretto, e nel frattempo c'è un paese che poi ribolle, esatto, non riuscendo a capire se il suo è un diritto disconosciuto eccetera eccetera. Tant'è che con i miei colleghi parlamentari, anche il Partito Democratico in particolare, noi ci siamo anche preoccupati di dire nella scorsa finanziaria, sia chiaro che se noi abbiamo messo delle risorse, 1, 2, 10 miliardi, 11, quelle risorse nel momento in cui non dovessero trovare allocazione, perché Tizio non c'è, Caio non me l'hanno segnalato, Sempronio è scomparso, le utilizziamo in un fondo destinato a questo scopo, per altri che arriveranno, certo, perché non raccontatemi poi che da una parte risparmiamo, dall'altra parte se ce n'è uno da aggiungere abbiamo problemi di copertura. Io credo che adesso l'azione che noi dobbiamo fare sia un po' questa, del resto diciamo che con l'ultima legge di stabilità, quando abbiamo aggiunto ai 6.000 che il governo aveva proposto di salvaguardare altri 17.000 per un totale di 23.000, noi ci siamo concentrati non tanto sulla questione allarghiamo, come si dice, le famiglie, perché ormai le abbiamo toccate tutte, esodati, prosecutori volontari, mobilitati, cessati, licenziati e così via, ma allarghiamo le maglie, faccio un esempio, quello lì non ha diritto perché è prosecutore volontario, però dopo aver versato un contributo ha guadagnato più di 7.500 euro, magari quella regola la togliamo per favorire, adesso ho citato un caso, sì, non so, sì, esattamente quello, ma per dare un'idea. Quindi io dico, Abbiamo 11 miliardi, abbiamo 160 mila da salvaguardare, 27 mila hanno la pensione in tasca. Noi dobbiamo trimestre per trimestre pretendere l'andamento dell'evoluzione di quelli che sono salvaguardati, fermo restando, come ha detto il direttore generale dell'INPS, che è chiaro, lo ripeto agli ascoltatori, che chi ha ricevuto la lettera nella quale si diceva tu sei salvaguardato, quello lì è salvaguardato, non si può mettere in discussione. Gli manca però una seconda lettera nella quale si dice: caro Cesare Damiano, tu sei salvaguardato. La seconda dice: carissimo, sei salvaguardato e prenderai la pensione il 30 giugno del 2015. Noi abbiamo riscontrato che ci sono moltissimi casi esattamente come quelli che lei ha appena descritto. Hanno il titolo esecutivo hanno il titolo di salvaguardia formale, ma non hanno quello esecutivo che gli comuni. E quindi questo problema, c'è un impegno qui ed è fondamentale, secondo me, che gli ascoltatori, moltissimi che ci hanno scritto, capiscano. L'impegno è quello di avere un monitoraggio programmatico. Il problema non è solo i 27.000 che hanno il trattamento, sono gli altri 133.000 che bisogna tentare. Le risorse ci sono, pazienza, ma l'impegno c'è, lo avete sentito dal Presidente della Commissione Lavoro. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale e poi con Damiano torniamo invece sulla riforma del lavoro, cosa pensa lo Joe Biden, cosa pensa delle sue proposte, perché poi Cesare Damiano ne ha di sue opinioni e proposte ben precise, a cominciare proprio da rimettere mano alla riforma Fornero sull'età pensionabile. La versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta, 16:47, primi 44 secondi, siamo con il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, del PD. Abbiamo ritoccato il punto degli esodati, avete sentito il suo appello all'associazione d'impresa e avete sentito l'impegno che lui ha in contatto istituzionale, sistematico con i vertici dell'INPS per questo sistema di monitoraggio. Le risorse ci sono, ma bisogna dare una risposta agli altri 133.000. Andiamo un pochino alle proposte per il lavoro, visto che mancano pochi giorni a questo Job Act, ma io prima di quello del Job Act chiederei di spiegare bene il punto per il quale Cesare Damiano spesso viene polemicamente citato in dissenso da altri parlamentari. Dice: le proposte dell'onorevole Damiano, che vuole tornare a una flessibilità dell'uscita dell'età pensionabile, sono troppo onerose e quindi sono incompatibili. Come funziona questa sua proposta, che se non sbaglio dice la riforma Fornero è stata troppo rigida perché è un tappo per i giovani? La riforma è stata rigida, sicuramente è un tappo per i giovani, perché se io rimango a lavorare fino a 67 anni mio figlio, mio nipote difficilmente entrerà in fabbrica, il problema del turnover esiste in questo paese. In secondo luogo, una riforma, come si dice, recessiva, perché scoraggia le persone, nel senso che sono un lavoratore di 60 anni, sono un'azienda che entra in crisi, comincio ad avere un bilancio rosso, comincio a preoccuparmi, non spendo più un centesimo, parliamoci chiaro, qui c'è una paura del futuro da parte non solo dei giovani, ma anche da quelli che ad una certa età possono correre il rischio di perdere il lavoro. Poi ha creato l'ingiustizia sociale, i cosiddetti esodati, di cui abbiamo già parlato. Allora, perché? Qual è l'errore? L'assenza di una gradualità. Io ho fatto un conto, confermato dalla ragioneria dello Stato, oltre agli 80 miliardi che si risparmieranno di qui al 2020, di cui si è parlato in molti casi. Con la Fornero a regime? Sì, se lei prende il periodo 2020-2060, è vero che in là nel tempo è un quarantennio, noi risparmieremo 300 miliardi con la riforma dal sistema pensionistico, che rappresenta il 15% del totale del debito pubblico italiano. Cioè si è fatta cassa sulle spalle dei pensionati. Io credo che questo sia stato, come si eccessivo, dice, l'eccesso. Quindi io naturalmente non sto dicendo che nella situazione in cui si è trovato il governo Monti, lo dico con onestà intellettuale, se fossi stato io nuovamente ministro del lavoro avrei tenuto le mie quote, quota 96-97, però le voglio dire, Giannino, che nessuno ricorda che con la mia riforma dal 1 gennaio del 2013, se fosse rimasta quella, per andare in pensione, se non avevi come minimo 61 o 62 anni e 35 o 36 di contributi, non ci andavi più. Quindi quella favola in base alla quale in pensione si va a 50 anni vale per qualche categoria super privilegiata. Lasciamo da parte i precoci, quelli che hanno cominciato, rara specie ormai era la mia generazione, che hanno cominciato a 15 anni, quello lì si fa 40 anni di catena di montaggio alla Fiat, lo so anch'io che a 55 anni può andare in pensione, ma era quello il caso, non il caso la generalità, normale. Certo. Ormai i nostri figli vanno a 30 anni, non ma vanno io penso, a 15 anni a lavorare. Io penso che se lei proponesse, so che la sua proposta è diversa, così gli do la possibilità di spiegarla, la possibilità di anticipare in maniera flessibile rispetto a questo innalzamento secco verso quota 67, eccetera, eccetera, eccetera, insomma verso la convergenza che c'è stata di fatto tra anzianità e vecchiaia con la Fornero accelerata. Se lei dicesse, benissimo, si conceda la facoltà flessibile di uscire prima, ma con una diminuzione proporzionale del rapporto, io penso che forse le obiezioni sarebbero minori. Mi pare di capire che le obiezioni si intestano sul fatto che dice no, non possiamo penalizzarli oltre l'8%, è così? Allora, la mia proposta è molto semplice, dice se tu hai 35 anni di contributi come minimo, questa è la base di partenza, se non ce l'hai ovviamente non vale, e raggiungi l'età minima di 62 anni, da quel momento puoi andare in pensione. Scegli tu tra i 62 e i 70. Naturalmente se vai prima, poniamo la data, l'età più bassa, 62, paghi una penale. La penale io l'ho individuata nell'8%, però è chiaro che questa può essere una base di discussione, se l'8 può essere il 10, diventa il 10, 62, 63. Ah, quindi lei insomma, su questo è disponibile a trattarne? Certo, e quindi qual è il problema? La ragioneria generale che dice. La ragioneria generale ha fatto dei conti secondo i quali questa proposta ha dei costi. Certo che ha dei costi, certo, ma qualsiasi proposta ha dei costi. Ma io mi domando, se noi avessimo fatto questa proposta 8% di penalizzazione, 35 di contributi, 62/70 di età, scegli tu lavoratore, sì, in base alla tua condizione soggettiva. Forse quegli 11 miliardi che abbiamo messo sul capitolo esodati li avremmo più utilmente impiegati per fare una riforma strutturale che avrebbe risolto il problema di tutti senza rincorrere questa o quell'altra specie di lavoratore che è disoccupato, licenziato, salvaguardato e così via, secondo me. No, è chiarissima la filosofia. Quindi io dico, adesso il ministro Giovannini ha ripreso il tema della flessibilità, propone un anticipo e un prestito 2 anni prima del momento della pensione a 67 anni. Io dico, però noi ne abbiamo parlato, però la proposta Giovannini, in altre parole, se qualcuno vuole andare prima noi gli anticipiamo, ma lui ce lo restituirà in termini attuariali dopo, però il problema è che così c'è un anticipo di cassa e lì la spesa in realtà è maggiore con il prestito, per così dire, l'anticipazione, che con la sua proposta, mi pare, o no? Non lo so, Giovannini dice che non ci sarebbe questa anticipazione di cassa se c'è la forma del prestito. Io adesso non voglio entrare in un dettaglio. Certo, perché questo tecnico dipende semplicemente da cassa, dire, e competenza, però di fatto lo Stato gli deve dare, quindi vabbè. Io quello che dico, se vogliamo chiudere un capitolo doloroso, che è dovuto a un errore, una riforma eccessiva, drastica, draconiana. Lei dice rivediamo questo criterio. Rivediamo il punto e introduciamo un criterio di flessibilità e poi troviamo il punto di equilibrio. Posso chiedere una cosa a cui non mi risponderà? Tra i parlamentari del suo partito, e se dovesse dire anche in Parlamento, ma cominciamo dal suo partito, la sua posizione secondo lei è maggioritaria? Nel Partito Democratico credo che sia maggioritaria, anche se onestamente, confesso, Renzi ha sempre dichiarato a me sta bene la riforma Fornero, salvo la questione esodati che va risolta. Mi dovrebbe spiegare Renzi come si può essere d'accordo con una riforma che produce il malanno degli esodati e voler risolvere benissimo il malanno degli esodati senza toccare. E allora adesso però glielo devo chiedere una sua opinione su i punti anticipati, sono solo titoli a dire la verità del Job Act fino a qui di Renzi. Stamattina tra l'altro lo ricordo, chi ci ascolta, sulla stampa il professor Ricolfi, il mio punto di riferimento, è stato molto pesante nel ricordare a Renzi sono appunto solo titoli e sbagli a dire che deve essere la politica e non devi parlare con gli esperti, gli ha dato addirittura del qui quo qua, un po' come se fosse la riforma di Paperopoli. Insomma, Luca Ricolfi è stato molto pesante, ma chiedo a Cesare Damiano, lo so che ha la responsabilità istituzionale in Parlamento, nel partito, ma ci dica in 2 minuti la sua prima impressione di quei titoli. La mia prima impressione conferma, l'ho anche scritto in un articolo recente, che si tratta di titoli, quindi dai titoli bisogna svolgere il tema come ci dicevano da ragazzi, no? Quindi c'era, come si dice, lo svolgimento del tema. io spero che lo svolgimento sia positivo. Noto un fatto positivo, che Renzi non parte dalle regole del mercato del lavoro per fare occupazione, ma parte giustamente dall'idea di aiutare lo sviluppo del paese, parla persino in qualche modo di politiche industriali, di settori innovativi, di settori tradizionali come la manifattura, la diminuzione del 10% del costo dell'energia, parla, favoriamo, di favorire l'economia reale. Ma se dovesse dire che cos'è che manca? Finanziaria. Cos'è che manca? Manca lo svolgimento. Beh, per quanto riguarda la questione del contratto di inserimento a tempo indeterminato, sì. Dico a Renzi che c'è già una proposta di legge firmata addirittura, prima firmataria Marianna Madia, della sua segreteria, nella scorsa e nell'attuale legislatura, che va in quella direzione. Per me va bene una prova lunga, durante la quale il lavoratore è licenziabile, se viene licenziato avrà un'indennità, un risarcimento, come si conviene. Ma ovviamente Non toccare la disciplina generale del 18 riformato della Fornero. Toccare nel momento in cui finisce la prova, divento a tempo indeterminato, devo avere il 18 statuto dei lavoratori, sia discriminatorio che per motivo. Va bene, economico. Onorevole Damiano, purtroppo il nostro tempo è finito, io la ringrazio, la richiameremo, intanto continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.